Celibato, sacerdozio femminile, omosessualità. E questo è il canone che da decenni determina sempre le stesse questioni che animano la discussione nei mezzi di comunicazione. Solo quando a esse si risponderà positivamente, si dice, la Chiesa tornerà a essere attraente. Salta all'occhio però che in Germania la Chiesa evangelica, che non ha il celibato e che ammette il sacerdozio femminile, perda più fedeli della Chiesa cattolica. Dedichiamoci brevemente ad alcuni punti. I cattolici che, avendo divorziato, si risposano, non possono ricevere la comunione. Lei una volta ha detto che il problema è molto difficile e deve ancora essere approfondito. Certo che bisogna farlo. Da un lato vi è la certezza di quello che il Signore ci dice. Il matrimonio contratto nella fede è indissolubile. È una parola che non possiamo manipolare, dobbiamo mantenerla intatta, anche se contraddice gli stili di vita oggi dominanti. Ci sono state epoche nelle quali il cristianesimo era talmente presente che l'indissolubilità del matrimonio era la norma, ma in molte civiltà essa non lo è. Spesso i vescovi del terzo mondo mi dicono: il sacramento del matrimonio è il più difficile di tutti, oppure: ma qui da noi il matrimonio monogamico non c'è mai stato. Armonizzare questo sacramento con i modi di convivenza tra mandati è un processo che coinvolge l'intera esistenza ed è una battaglia il cui esito non può essere forzato. In questo senso, quello che oggi osserviamo nella società occidentale, che va sfaldandosi, non rappresenta l'unica situazione di crisi rispetto a tale questione. Ma rinunciare per questo al matrimonio monogamico oppure interrompere la battaglia per questa forma di unione significherebbe contraddire il Vangelo. Dio ha creato gli uomini, maschio e femmina, e l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, dice Gesù. E tuttavia è un comandamento che fece mugugnare già i primi apostoli. Quello che si può fare è da un lato analizzare più a fondo la questione della validità dei matrimoni. Fino ad oggi il diritto ecclesiastico ha presupposto che chi contraeva matrimonio sapesse che cos'è il matrimonio. Nell'odierno groviglio di opinioni e in una costellazione totalmente mutata, è più facile che si creda che corrisponde maggiormente alla normalità rompere un matrimonio. E allora è necessario chiedersi come riconoscere la validità e come sia possibile operare per una guarigione. Un combattimento vi sarà sempre, ma per questo cedere o ad abbassare l'indice non aiuterebbe la società a innalzare il proprio livello morale. Mantenere come criterio di giudizio ciò che è difficile, fare in modo che sia questo il metro al quale gli uomini possano sempre commisurarsi, è un compito necessario affinché non seguano altre cadute. C'è in questo senso una certa intima tensione. La pastorale allora dovrebbe vedere come restare vicina alla singola persona e, anche nella situazione, diciamo, irregolare, aiutarla a credere in Gesù Cristo Redentore, a credere alla sua bontà e che Lui è ancora lì per lei, anche se non può ricevere la comunione, ed a restare nella Chiesa, anche se la condizione in cui vive non è in ordine dal punto di vista del diritto ecclesiastico. La pastorale deve aiutare quelle persone a riconoscere questo. Certo, sono al di sotto di quello che come cristiano dovrei essere, ma non cesso di essere cristiano, di essere amato da Cristo, e tanto più rimango nella Chiesa quanto più Egli mi prende sulle sue spalle.